Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Come ho già detto, oggi parleremo del mondo del cibo che è stato toccato dal terremoto, e devo dire che quello che riassume la motivazione della mia trasmissione, diciamo quello che andremo a fare oggi, è contenuto in un SMS. Sono già arrivati tanti SMS addirittura prima di cominciare, e io ve lo voglio leggere perché secondo me è importante. Buongiorno, mi chiamo Laura e sono di Mirandola. Vi scrivo per dirvi che dietro la nostra disgrazia ci sono tante iniziative vere, ma anche tante bufale. Ci sono ristoratori che si fanno pubblicità per queste cene pro terremoto, ma in realtà ai terremotati non versano nulla. Ci sono addirittura persone fisiche che aprono conti correnti a loro intestati con causale pro terremotati. Potrei continuare. Ecco, allora è vero, arrivano tantissime email con appunto numeri a cui fa riferimento, siti. La motivazione è proprio questa, di andare a vedere chi ha veramente avuto questi disastri e chiedere ai presidenti dei consorzi Parmigiano Reggiano e Grana Padano qual è il modo migliore per aiutare, se attraverso, solo attraverso loro, oppure se ci sono tante altre iniziative. Allora io comincerò con un ristoratore che sicuramente ha avuto dei danni, perché ho visto le immagini, ho visto le foto. Buongiorno a Gianni D'Amato del ristorante Rigoletto di Reggiolo. Buongiorno Gianni. Buongiorno, buongiorno a voi tutti, buongiorno. So che lei dovrà rimanere chiuso per tantissimo tempo, quindi un danno economico non indifferente, è così? Sì, un danno economico, adesso di preciso non sappiamo ancora quanto, ma passeremo sicuramente l'anno, perché la casa dove avevamo un ristorante, dico avevamo perché non c'è più, è tutta devastata. Ecco Gianni, in questi mesi che lei rimarrà, che dovrà forzatamente rimanere chiuso, cioè qual è il modo migliore per aiutarla? Magari che i suoi colleghi possono così chiamarla in qualche altra città, da qualche altra parte, a fare delle serate, delle giornate. Questo può essere il miglior modo? Beh, sicuramente sì, abbiamo avuto tanto conforto da parte dei colleghi che ci stanno aiutando, ci stanno organizzando cene, hanno già organizzato qualche cosa, e perciò per noi questo è un motivo d'orgoglio che ci dà la forza per poter poi riaprire in un futuro prossimo. Ecco, quindi avrà bisogno di ricostruire anche cucina ed altro, quindi certo. Dal punto di vista tecnico. Certo, sì, c'è praticamente adesso i macchinari ci sono ancora. Lì non c'è stato problema, però chiaramente come ripeto, il locale è stato devastato dappertutto, in ogni zona, nelle sale, nelle cucine, ai piani di sopra, le camere, che noi avevamo quattro camere, quattro suite, e praticamente ci sono degli ingenti danni, però aspetteremo finché non si metterà tutto a posto per poi ripartire. Nel frattempo, se noi troveremo qualche locazione da poter sfruttare, non proprio come il Rigoletto di adesso, ma anche come il bistrò che avevamo nell'hotel, per ripartire, per fare qualche cosa, per non star fermi, ecco. Certo. Per star fermi è un po' un problema. Bene, voglio ricordare che Gianni D'Amato e Rigoletto è un ristorante stellato, due stelle da diversi anni, quindi un ristorante abbastanza importante. Gianni, lanciamo questo appello. Io ricordo il numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666, e poi di potersi rivolgere a loro, appunto, a questo appello che ha fatto Gianni D'Amato. La ringrazio, grazie, grazie. E buon lavoro, spero veramente grazie. Che sì. Grazie bene. A voi. Beh, grazie. Mauro Trevisi della provincia di Manto, radioascoltatore però che so che rappresenta una latteria. Buongiorno Mauro. Buongiorno a lei Paolini, buongiorno. Mi sente? Sì, la sento. La sua latteria ha avuto danni, so, molto gravi. Io rappresento, sono responsabile amministrativo della latteria Tullia di Rolo, Reggio Emilia. È una che ha fatto il giro del mondo perché era quella squarciata e dava sulla provinciale che andava all'autostrada tra Moglie e Reggiolo. Niente, io volevo fare un appello a tutti gli ascoltatori che vadano a visitare il nostro sito, per darci una mano, a visitare il nostro sito che è www.venditaparmigiano.it, dove noi lì abbiamo messo in rete, vendiamo solo in rete, il nostro formaggio danneggiato. Sono pezzi da un chilo, nel sito c'è tutta la procedura da seguire. Noi destiniamo, come fa anche la grande distribuzione, un euro al chilo da queste vendite, che verrà come si dice, verrà girato al comitato che è stato creato apposta dal consorzio del Parmigiano Reggiano per dare questo contributo ai casistici che hanno subito i danni. Bene. Quindi, ripeto, tutti gli ascoltatori di andare a vedere il sito www.venditaparmigiano.it. Grazie Mauro, speriamo che grazie venga raccolto. Sentiamo Francesco, un altro radioascoltatore della provincia di Foggia. Buongiorno Francesco. Buongiorno, è Francesco Palmieri, mi occupo di gelato. E ho sentito nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, dei colleghi che sono stati coinvolti dal sisma, che hanno bisogno di aiuto, e solo che non sappiamo come aiutarli, ci vorrebbe un coordinamento per cercare, ecco, di mettere a disposizione macchine che molti di noi hanno, che possono mettere a disposizione prodotti, anche piccole strutture. Guardi Francesco, fra poco interverrà Greta Bellaldelli, che è la gelateria Chantilly di Moglia, che è stata completamente distrutta. Sentiremo da lei, quindi lei ha lanciato un appello appunto d'aiuto, vediamo cosa ci risponderà Greta, di che cosa c'è bisogno. Grazie a Francesco della provincia di Foggia. Dovrei leggere non so quanti sms che sono già arrivati, piano piano le faremo tutte. Abbiamo con noi anche il vino, è stato molto danneggiato, è stato danneggiato soprattutto il formaggio. Fra poco sentiremo Pietro Maria Gattoni di Pegognaga, un caseificio, anche lui ci racconterà la sua storia. Per ora passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, parliamo appunto di terremoto, parliamo di personaggi del mondo del cibo che sono stati colpiti, ristoratori. Abbiamo sentito ora parlare di gelato e ho detto prima che avremmo avuto appunto una gelateria di Chantilly di Moglia che è stata completamente distrutta, e un amico Palmieri di Foggia ha lanciato appunto, ha detto di cosa avete bisogno. Io voglio leggere comunque, diciamo, cosa hanno scritto subito dopo il terremoto Greta Bellaldelli e Massimo. Hanno scritto a tutti gli amici clienti di Chantilly: al momento abbiamo i locali dell'attività inagibili, stiamo correndo per ripristinare al più presto il nostro appassionante lavoro. Appena avremo buone notizie vi avviseremo, organizzeremo una festa. A presto, Greta e Massimo. Greta, quando la festa? La festa, buongiorno Davide, buongiorno a tutti. La festa sarà il 20 luglio e sarà Crema e Caos Party. Crema ovviamente perché siamo Chantilly, quindi la crema protagonista, e la musica. Una festa perché noi siamo riusciti a ripartire. Tra l'altro conosco benissimo Francesco Palmieri, è stato la prima persona che ho contattato, perché è stato il mio primo maestro, e la prima persona che ho contattato per sapere come potevamo muoverci, sapendo che lui ha un chiosco molto importante a Manfredonia. E in effetti la direzione è stata quella. Noi al momento ci siamo attrezzati con una casetta di legno e siamo riusciti a ripartire. Ovviamente insomma riducendo le tipo di prodotti che facevamo prima, però mantenendo sempre i nostri standard qualitativi. E la festa che organizziamo proprio per questo è il 20 luglio dalle 9 in poi, dove insomma speriamo che venga tanta gente, perché insomma noi siamo riusciti a ripartire e speriamo che lo riescano a fare presto anche i nostri colleghi, sia nel mondo del gelato ma anche in altri ambienti, come abbiamo sentito prima, ristoratori e altri. Bene Greta, guarda, faremo tante altre feste perché partirà ad agosto il panettone d'agosto, esatto, quindi tu sei una fedelissima di questo, quindi preparati perché ci saranno tante belle iniziative ad agosto, quindi bene, grazie. Sicuramente sarai presente sempre, e così vedremo un po' di tirarti su. È fondamentale riuscire ad organizzarsi anche senza avere la propria struttura a disposizione, ma essendo disponibili a muoversi e a trovare altri sistemi, insomma, per non star fermi. Bene Greta, questo è un esempio sicuramente di forza, di coraggio e di entusiasmo. Grazie, io ti auguro grazie. Appunto una grandissima festa il 20, e spero che appunto la tua attività ti dia successo come ti aveva dato fino ad oggi. Sentiamo Alberto da Bologna, un radioascoltatore. Buongiorno a tutti, sono Alberto della trattoria Amerigo di Savigno. Ciao Alberto. Chiamo per testimoniare un impegno del nostro gruppo, le Premiate Trattorie Italiane, che tu probabilmente conosci già, e per un'iniziativa molto interessante che facciamo lunedì sera a Isola Dovarese, al Caffè La Crepa, nella piazza, dove in una cena per 110 persone di presentazione del nostro nuovo gruppo. A fine cena terremo quest'asta di beneficenza a favore di chi? Di una cosa specifica, della Lanterna di Diogene, che è un'osteria della zona di Bonporto, di Modena, che fa lavorare persone diversamente abili, ragazzi che hanno problemi, sindrome di Down, psicosi e paralisi cerebrale infantile, hanno grossi problemi, loro coltivavano degli orti, gestivano la trattoria, animali, galline, ma soprattutto la cetaia è crollata, il costo di ricostruzione va veramente al di sopra delle loro possibilità, oltre 150.000 euro, a parte ancora poi 15 quintali di aceto andato perso, eccetera eccetera. E quindi cosa faremo? Faremo un'asta dove Giovanni direttamente dall'Antenna di Diogene verrà, metterà l'asta 6 bottiglie del più prezioso aceto che ha salvato lui stesso dal crollo della cetaia. Oltre a questo metteremo all'asta 5 oggetti che ci appartengono, a noi delle 5 trattorie, per il quale abbiamo un valore affettivo. Per noi molto importante. A fine serata metteremo all'asta tutto il vino dei 5 sponsor che saranno abbinati ai nostri 5 piatti, 5 vini, 5 sponsor metteranno a disposizione del vino, poi ci sarà dello champagne di un importatore locale, quindi tutto direttamente andrà a beneficenza della Lanterna direttamente. Bene. E Giovanni farà la ricevuta diretta. Questo è un modo, secondo me, sono bello per vedere direttamente dove vanno i soldi. Sono d'accordissimo. Corrente anonimo. Sono d'accordissimo, Alberto, e dico che le 5 trattorie, vi garantisco che sono 5 trattorie straordinarie, quindi si mangerà anche molto, ma molto bene, spenderete molto bene i vostri soldi. Ora abbiamo con noi, come ho detto prima, abbiamo Pietro Maria Gattoni del caseificio Caramasche di Pegognaga. Buongiorno Gattoni. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. A Pegognaga avete avuto danni molto seri? Sì, a Pegognaga è stato uno dei centri dove abbiamo subito di più i danni. Il nostro caseificio ha avuto 20.000 forme cadute all'interno del magazzino, ma tutto all'interno del comune altre 150.000 forme sono cadute, quindi insomma siamo stati colpiti da questo terremoto. Volevo dire solo una cosa in premessa: noi parliamo, è giusto che parliamo di prodotto con lei, con voi. Il primo pensiero però nostro va alle vittime di questo terremoto e certo. Diciamo che siamo stati fortunati nel nostro settore a non aver avuto vittime, perché comunque lavoriamo all'interno di queste strutture, quindi è stato veramente una cosa di cui siamo grati, il fatto che non ci siano stati convenienti alle persone serie. Senta Gattoni, ci sono tantissime iniziative in rete, appunto per il parmigiano reggiano, per il grana padano, poi avremo anche i due presidenti e sentiremo anche dalla loro viva voce, ma ci si può fidare di tutte queste iniziative, oppure ce ne sono qualcuna diciamo che danno maggior fiducia delle altre? Che è questo che io volevo riuscire a capire. Ma guardi, noi per esempio come scelta aziendale abbiamo deciso di preoccuparci di recuperare il prodotto nel miglior tempo possibile, quindi la nostra concentrazione è stata tutta volta a fare in modo di poter recuperare il più possibile del prodotto secondo gli indirizzi che ci sta dando il consorzio. Le iniziative che ci sono di solidarietà ci sono sicuramente iniziative positive, vanno però a mio avviso tutte ricondotte ai consorzi. In questo momento bisogna dire chiaramente ai consumatori che non esiste formaggio terremotato, questo potrebbe generare solo speculazioni che non darebbero vantaggio a nessuno. Noi dobbiamo dire ai consumatori che il nostro il parmigiano reggiano è un prodotto straordinario. Far capire che colpire i magazzini di stagionatura ha significato colpire il cuore della nostra produzione, perché noi stagioniamo il prodotto quasi 22 anni, quindi siamo stati colpiti proprio al cuore delle nostre aziende. E da lì stiamo tirando fuori con grande orgoglio quello che riusciamo. Quello che non riusciamo verrà gestito attraverso un'azione congiunta del consorzio per fare in modo che non ci siano canali che tutelino il consumatore, e solo il formaggio che ha i requisiti per essere chiamato parmigiano verrà sul mercato, per cui l'invito è: continuate a acquistare parmigiano, se volete fare qualcosa per noi andate andate nel più vicino punto vendita e chiedete il miglior parmigiano reggiano che avete. Questo è il modo migliore per aiutarci. Bene, grazie. Grazie a Pietro Maria Gattoni, caseificio Caramasche di Pegognago. Ora andiamo al vino, perché anche il vino è stato colpito. Andiamo da Carlo Piccinini, presidente della cantina Lambrusco di Sorbara. Buongiorno Piccinini. Buongiorno. Quali danni ha avuto diciamo il vostro prodotto, e diciamo estendendolo un po' anche all'area del Lambrusco? Allora, diciamo che noi siamo stati più fortunati rispetto agli amici del parmigiano. Devo dire, usare il termine fortunati perché non è certamente una questione di abilità o perizia, ma semplicemente fortuna. I danni principalmente hanno riguardato una cantina, un marchio storico che si chiama Cavicchioli, provincia di Modena, e hanno lo stabilimento fermo. Altre cantine hanno avuto danni, però limitate, comunque non ci sono state perdite di prodotto importanti, però devo dire che il lato dove siamo stati veramente colpiti sono le nostre basi sociali. Io sono una cantina cooperativa, ho tanti soci che hanno perso la casa, che hanno perso l'azienda, e quindi dobbiamo dar loro delle risposte in tempi brevi. Com'è. Quindi diciamo che il discorso, come è stato per il parmigiano, di acquisti o d'altro, in questo caso non serve assolutamente, perché mi sembra di capire che diciamo le aziende sono state colpite nei personaggi, nelle persone private, quindi nelle case d'altro, è così? Sì, soprattutto, e poi anche paradossalmente il contrario, cioè per esempio la mia cantina un po' per i danni, un po' per i vincoli burocratici, per un mese abbiamo potuto imbottigliare, quindi non avevamo neanche prodotto da vendere come cosa. Quindi. Bene, Piccinini, io la ringrazio, e se ci fosse in ascolto Claudio o Sandro Cavicchioli, visto che io non sapevo che erano stati così colpiti, magari se si fanno vivi volentieri ascolto. Guardi, io sono adesso, incontro Sandro perché sono a una manifestazione di Canossa Terra di Lambrusco, ho visto anche Sandro, al limite glielo saluto io con me. Va bene, speriamo, se fa ancora in tempo a telefonare, a me fa molto piacere. 800 24 00 24, grazie. E sentiamo Alessandro dalla provincia di Verona. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, sono Davide. Girando i supermercati qua della provincia di Verona, c'è qualche supermercato che ha in distribuzione del parmigiano reggiano a 13 mesi, mi sembra che sia un prezzo di 10,90 euro, con la dicitura che acquistando quel parmigiano reggiano lì si va a aiutare le popolazioni colpite dal terremoto, no? Però diciamo, mi sorge un dubbio, perché sullo scontrino come si fa a capire se acquistando questo formaggio in pratica... Bene, guardi, lo ripeto, fra poco avremo il presidente del Consorzio Tutela Grano Padano e poi anche il presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Sentiremo dalla loro viva voce come stanno le cose. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Eccoci di nuovo a parlare purtroppo di terremoto, di danni avuti a moltissimi ristoratori, caseifici, gelaterie. Ma sentiamo anche Luca dalla provincia di Mantova, un radioascoltatore. Buongiorno Luca. Buongiorno. Prego. Ecco, no, chiamavo da Pegognaga, in provincia di Mantova, dove c'è il consorzio del parmigiano reggiano che abbiamo sentito certo, prima. Certo, certo. Io volevo segnalare un coltivatore di principalmente meloni ed angurie dell'azienda agricola Cornelio Bernardelli, che ha avuto la casa, l'azienda, la stalla completamente distrutte, dovrà probabilmente radere al suolo. È una persona che va sostenuta acquistando i suoi prodotti. E come? Come possiamo farlo? Prima poteva venderli a casa, no, in qualità di produttore diretto, e adesso invece è costretto a venderli in maniera ambulante nei mercati attorno a Pegognaga, oppure a Pegognaga di fronte al Famila, quindi nel parchesino della Villa Angeli. Senta, questo è evidente che difficilmente può spedire, cioè in questo momento appunto di meloni e angurie è difficile poter spedire, immagino. Sì, perché siamo proprio al picco della produzione, che è di ottima qualità, perché fa tutto in maniera biologica, diserba a zappa, con cima, con letame. Ho capito. Sono veramente di ottima qualità, i metodi di produzione garantiscono... Certo, può ripetere dove vende? Allora, attualmente lo si può trovare al mercato del lunedì mattina a Pegognaga, sì, che è di fronte alla Coop, e durante la settimana di fronte al Famila, presso il parcheggio di Villa Angeli, sempre a Pegognaga. Perfetto, la ringrazio. Grazie Luca di questa segnalazione. Sentiamo, abbiamo parlato prima di ristoranti completamente distrutti. Ebbene, anche a Finale Emilia c'è stato un noto ristorante che è stato completamente distrutto, l'Osteria La Feffa. Buona giornata, Giovanna Guidetti. Sì, buongiorno. Volevo precisare, il mio locale non è stato distrutto, è reso inagibile da palazzi che confinano, che sono dichiarati inagibile di tipo E. Comunque lei non può lavorare? Non posso lavorare. Quindi sono nella zona rossa, devo aspettare che mettano in sicurezza i palazzi che confinano con noi. Senta Giovanna, prima abbiamo sentito Gianni D'Amato che ci ha detto appunto che cercherebbe anche così di poter svolgere la sua attività altrove per un certo periodo di tempo. Lei come potrebbe essere aiutata? Anch'io sto cercando di trovare una sistemazione da altre parti, perché non so i tempi della burocrazia, perché credo che siano tempi molto lunghi, perché la mia ristorante è di fronte al castello di Finale Emilia, che è crollato per metà, certo. E a pochi passi dalla Torre dell'Orologio, che era l'emblema del terremoto dell'Emilia. Ho capito. Senta, e ha già avuto qualche dei suoi colleghi qualche aiuto, qualche così offerta in questa direzione, oppure ancora non ci sono? Al momento ancora no, ho partecipato a qualche cena di beneficenza, anche lunedì sera parteciperò alla cena di beneficenza che ci sarà al Grand Hotel a Veneto, e farò il secondo piatto. E poi sì, tanti ristoratori mi hanno chiamato a fare delle cene anche sul lago Villa Carlotta, sul Lago Maggiore, la ristorante Manuelina Recco, per poter raccogliere qualche fondo sia per il paese che anche per me, perché l'inattività, e poi comunque il mio locale è sempre stato agibile, però qualche crepa si è formata, abbiamo incaricato una ditta specializzata, certo, per fare queste infiltrazioni in resine. Ecco, allora facciamo un appello a altri colleghi, per Giovanna Guidetti, Osteria La Feffa di Finale Emilia, appunto, che in questo momento possa continuare fino a quando il suo ristorante non riprenda vita. Se c'è qualcuno che poi vuole avere i numeri di telefono mi può chiamare, io gli darò volentieri i numeri di telefono di Giovanna Guidetti. La ringrazio, grazie e tanti auguri. Tanti auguri. Bene, abbiamo parlato di consorzi, abbiamo parlato di capire appunto cosa si può fare e quali sono le strade migliori, dove non imbattersi in brutte sorprese, e abbiamo con noi Nicola Cesare Baldrighi, presidente del consorzio tutela del Grana Padano. Buongiorno Baldrighi. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Senta Baldrighi, qual è il miglior modo appunto per dare una mano anche ai produttori del suo consorzio che hanno avuto danni? Beh, quello che noi stiamo ripetendo ormai da tempo è che a noi occorre l'aiuto dei consumatori, la loro fedeltà negli acquisti sul prodotto marchiato Grana Padano attraverso i normali e abituali loro punti vendita, catene, negozi nei quali sono abituati a comprare, attraverso gli abituali canali presso i quali loro si forniscono. Quindi è sufficiente che i consumatori, ponendo la loro attenzione sul marchio Grana Padano e sul formaggio autenticamente marchiato, si rivolgono ai loro abituali fornitori. Questo è per noi motivo di avere un'economia per i nostri caseifici ancora sufficientemente dinamica, che ci consenta di avere un mercato che si muove e che ci dà l'opportunità di ripartire e di riprendere. Poi, attraverso tutta una serie di accordi che noi abbiamo fatto con le catene dei supermercati, una parte del valore di questi acquisti sarà devoluto a favore delle popolazioni terremotate. Sarà appositamente indicato nelle catene un euro il chilo di formaggio venduto, sarà messo su un conto che noi abbiamo aperto presso la Croce Rossa Italiana e da lì distribuito ai comuni della zona terremotata. Ecco, rimanga con noi perché credo ci sono delle domande. Ennio, dalla provincia di Monza Brianza, un radioascoltatore. Buongiorno Ennio. Buongiorno a lei e a tutti coloro che sono in ascolto. Mi scuso per la voce un po' bassa. Mi dica. Senta, volevo solo sapere, visto che è stata facendo tanta pubblicità per l'acquisto del parmigiano reggiano, e qua sulla zona di Monza io in tutti i supermercati, in tutti i negozi non ho mai visto queste offerte che lei dice. No, io non dove lo dico. Si possa acquistare questo parmigiano? Non è che io lo dico, cioè non è che sono io che lo dico, c'è una realtà, però abbiamo parlato anche di Grana Padano, ha sentito ora il presidente del Grana Padano che ha spiegato. Chiediamo a Baldrighi, ma sicuramente nella zona di Monza Brianza, Baldrighi, ci saranno queste iniziative anche di... Beh, guardi, parte proprio un'iniziativa importantissima dalla metà di luglio in poi, proprio nella zona di Milano, nella provincia di Milano, con tutte le catene, tutte le insegne di quella, di quel territorio, un'attività di presentazione e di promozione di Grana Padano, quindi potrà benissimo approvvigionarsi e trovare quello che lui cerca, e avrà anche l'evidenza della, del contributo che il consorzio poi devolverà a favore delle popolazioni terremotate. Bene, la ringrazio Baldrighi, grazie, la ringrazio. Che tengo a sottolineare, sì? Le popolazioni terremotate sono sia dell'Emilia sia della Lombardia, perché tutta la provincia di Mantova nella, certo, zona bassa ha subito un danno importantissimo. Sì, infatti abbiamo sentito da Pegoniaga diversi casi, quindi mi sembra proprio che anche questa zona sia stata molto colpita. Grazie Baldrighi, grazie delle precisazioni. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori. Bene, parliamo anche di aceto balsamico tradizionale, perché sicuramente anche questo ha avuto dei danni. Allora, non sono andato a ricercare un produttore o dei produttori, ma per capire, mi risulta che il 24-25 giugno c'è un'importante iniziativa, appunto, organizzata dalla conserteria dell'aceto balsamico tradizionale, e credo che in quell'occasione molti produttori si presentino. So che ci sono state molte assenze, e allora io mi rivolgo al gran maestro della conserteria, Luca Gozzoli. Buongiorno Gozzoli. Buongiorno a tutti, buongiorno Davide. Ci può dare una panoramica, perché si è parlato poco dell'aceto balsamico, ma mi risulta che ci siano molti danni. Sì, si è parlato poco dell'aceto balsamico tradizionale di Modena. È un prodotto dove non c'è una grande produzione, ma non è un vezzo parlare di aceto balsamico, perché la nostra identità, la nostra cultura, la nostra tradizione è anche una quota di reddito importante in agricoltura. Noi abbiamo avuto danni in alcune aziende, soprattutto ovviamente nelle zone colpite, ma la cosa incredibile è che i danni sono quasi su tutta la provincia, perché il sommovimento, che purtroppo nelle zone dove abbiamo sentito anche gli amici che sono intervenuti, ci sono stati crolli e le distruzioni, ma ad esempio anche a Modena e nei comuni vicini le acetaie hanno traballato parecchio, alcuni barili si sono rovesciati, e quindi noi oggi non siamo ancora in grado di fare una quantificazione, ma il balsamico della tradizione secolare deve riposare. Questi sommovimenti hanno causato dei gravi danni probabilmente in molte batterie, anche e soprattutto familiari, e questo è un grande dispiacere. Lo scopriremo fra qualche mese con i prelievi. Ho capito. Ma voglio leggere anche, rimanga con noi Gozzoli, sì, certo. Ho una serie di sms. Posso mettere a disposizione capannoni e cella frigo per 6 mesi a Verona? Io credo che in questi casi forse la cosa migliore è rivolgersi ai consorzi, caro Domenico, che hai mandato questo interessante sms. Io posso anche rilanciarlo, però al di là di questo non posso fare. Sentiamo Marcello da Roma, un radioascoltatore. Buongiorno Marcello. Buongiorno. Mi dica. Buongiorno a lei. Prego. Senta, io mi trovo sto tornando a casa. Sono stato a finale Emilia a consegnare 3 container per conto della Federazione Italiana Tabaccai. Cioè ci sono dei tabaccai che stanno completamente fuori, tutto il negozio è crollato, eccetera. Io volevo suggerire, questo è fino ad ora fra Reggiolo, ne ho consegnati altri 6 l'altra settimana, ho consegnato 9 container a 9 tabaccai che lavoravano, non potevano entrare nel loro negozio, e altri hanno fatto come noi, tipo le poste, che hanno anche loro hanno delle casette mobili eccetera. Io quello che volevo suggerire, per poter dare un aiuto concreto, cioè che qui la gente parla, ma poi alla fine la concretezza se ne vede poco. Io sono stato là, sono 2 settimane che sono lì, e la situazione per ripartire non è così semplice. Se a questa gente, le associazioni di categoria, insomma ognuno, i gelatai pensassero anche a fare fra di loro come abbiamo fatto noi. Le farmacie sono chiuse, sono inagibili, perché i farmacisti non aiutano i loro colleghi? Anche perché deve sapere che gli ordini sono fermi, sì, la gente, gli ordini sono fermi. Se questa gente, se, se la Confcommercio, la Confesercenti, tutte le associazioni di categoria non aiutano sotto l'aspetto burocratico e soprattutto economico, bisogna andare lì. Io ieri ho parlato con un negozio sportivo mentre mi posizionavo nel container sulla piazza, su Piazza Garibaldi, mi ha detto a me: se non mi danno qualche soldo io qua che ordini faccio? Io sono disastrato, sta mettendo la roba a 10 o 20 euro. Allora chi vuol comprare bene vada pure là, perché si trova di tutto e di più, perché la gente bene. Veramente sta messa male. Grazie. Io volevo suggerire questo qua, che le associazioni di categoria si muovano, certo. Si muovano. Grazie Marcello. Gozzoli, volevo chiederle, c'è qualche iniziativa che riguarda l'aceto balsamico tradizionale? Sì, noi venderemo come consorteria il nostro prodotto dedicando un euro ogni bottiglietta venduta alle zone terremotate. E stiamo già raccogliendo fondi per riparare le acetaie comunali che sono state compromesse, ad esempio di quella di Mirandola non abbiamo praticamente nessuna notizia. E poi ci stiamo impegnando anche per aiutare Giovanni della Lanterna di Diogene e sì, tutti i ragazzi che sono lì. Ma la cosa più importante da fare, secondo me, a questo punto è quello, come hanno detto anche gli altri colleghi, di comprare il prodotto. Nel nostro caso l'aceto balsamico tradizionale stravecchio nella bottiglietta di Giugiaro, cioè quello... Certo, quello vero. Quello vero, quello vero, quello del marchio, sì, certo. Comprando quello si genera un meccanismo virtuoso, si ridà linfa ai produttori colpiti, anche perché le piccole cooperative, il consorzio stesso, stanno cercando di fare questa operazione. Grazie Luca Gozzoli. Ora grazie, passo a la voi. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Eccoci di nuovo a parlare appunto di danni al terremoto, e abbiamo con noi il presidente del consorzio parmigiano-reggiano, Giuseppe Alai. E proprio lui, visto che si parla sempre più spesso il parmigiano, acquisti di parmigiano, io voglio chiedere un messaggio di chiarezza ad Alai. Cioè, cosa bisogna fare chi vuole aiutare i produttori di parmigiano? Dove comprare e dove non comprare? Buongiorno Alai. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori. Ma in questo momento stiamo vivendo una fase abbastanza delicata, ma questo è risaputo. Per quanto riguarda invece la chiarezza verso i nostri consumatori, ai quali chiediamo ovviamente di continuare a comprare il nostro prodotto, anche perché in questo modo diamo una mano per poter collocare la parte non danneggiata di quelle 635.000 forme, e soprattutto di cercare di darci un aiuto ulteriore nel ricostituire i posti forme in cui andare a mettere la nuova produzione, perché noi abbiamo anche questo altro grosso problema. Il consorzio si è attivato da subito controllando, tra l'altro abbiamo incrementato anche i nostri controlli di circa 4 volte rispetto alla norma, mettendo molto personale a verificare che non si commettessero truffe o imbrogli ai consumatori, proprio perché chiediamo ai consumatori di continuare a comprarci, ma nello stesso tempo di verificare la presenza di un bollino che il consorzio mette in modo o adesivo o prestampato su ogni confezione, che dice che un euro di quell'acquisto viene destinato ai caseifici terremotati, che hanno costituito un apposito comitato davanti ad un notaio e quindi raccoglieranno questi contributi per fronteggiare la situazione di difficoltà. Senta lei, come ci dobbiamo comportare di tutti questi, diciamo, siti che vengono, sono in rete, che dicono appunto comprate da noi, perché poi, diciamo, i fondi andranno ai terremotati? Come ci dovremmo comportare? Deve esserci quel bollino di cui vi parlavo poc'anzi. Questa è la sicurezza che il consorzio del Parmigiano Reggiano dà a tutti gli acquirenti. Se c'è quel bollino siete tranquilli che i soldi andranno veramente ai caseifici. Se non c'è quel bollino è una iniziativa di tipo personale o soggettiva fatta da quel caseificio, da quel commerciante, ma che non dà nessuna garanzia attraverso il consorzio. Senta lei, un po' di giorni fa un'amica mi ha fatto vedere il formaggio che aveva comprato attraverso un sito in rete, e c'era il nome di un caseificio. Io ho chiamato e questo caseificio non è stato danneggiato, e mi ha spiegato che il meccanismo è che molti caseifici che non sono stati danneggiati apportano il loro formaggio, per cui un euro di quello che verrà venduto, appunto, di questo formaggio andrà ai terremontati. È così? Sì, è così, perché facciamo questa considerazione velocemente. I caseifici terremotati con il magazzino, quindi crollato, e i magazzini di stagionatura sono 19. I caseifici che hanno avuto forme dentro a questi magazzini crollati sono 39. Gli allevatori sono 602, quindi c'è una filiera con una successiva concentrazione nei vari passaggi delle operazioni. Quello che conta, però, ribadisco, è che comunque vi sia quell'euro destinato ai caseifici terremotati, perché nei 13,90, 14 euro che è il prezzo a cui appunto viene venduto questo prodotto, un euro va ai caseifici e 13 euro servono invece per pagare il prodotto, il confezionamento e il trasporto, quindi siamo anche dei prezzi assolutamente accessibili. Quello che conta è che vi sia quella destinazione di quella parte di costo del prodotto per i consumatori che sia destinato ai caseifici. La ringrazio per la chiarezza e le auguro buona scalata, arrivederci Alai. Grazie Davide, grazie a tutti i vostri radioascoltatori. Bene, io ora ho un amico ristoratore e ho visto l'immagine della sua cantina che è stata completamente a pezzi. Buongiorno Romano Tamani dell'ambasciata. Buongiorno. Di Quistello. Davide, Paolini e i telespettatori, i radiospettatori che si ascoltano. No, sono telespettatori, sono radiospettatori, radioascoltatori. Senti Romano, tu hai avuto la cantina che è a pezzi, cosa si può fare? La cantina è ceduta tutta, non c'è più niente. Quindi bisogna ricostruirla? Bisogna ricostruire, abbiamo già fatto tanto. E pensavo che qualche produttore di vino ti desse una mano. Generoso, perché noi abbiamo pagato tanto vino in questi 35 anni di ristorazione, ma nessuno ci ha mandato una bottiglia di vino. Bene, allora facciamo un appello noi, e avete sentito dalla voce di Romano Tamani, ci sono le foto che attestano che la cantina è stata distrutta come degli altri che abbiamo chiamato. Se c'è qualche produttore che così vuole dare una mano a Romano Tamani a ricostituire la cantina, io credo che si possa fare anche il valore. Io ho preso, Davide, il formaggio. Né Carlo, tu hai visto dei bollini sopra il formaggio? Alla Coop le fanno. Io ho cercato in giro, ho visto che le vendono anche verso Schivenoglia, vengo Villa Poma, ma non ho capito se è il bollino. Credo che in questa catastrofe di numero di formaggio, di forme rotte, distrutte, qualcuno aggiunga qualche balonca, va via bene. Beh, caro Romano, in questi casi succede. Noi abbiamo cercato di portare chiarezza. Speriamo che ci sia la buona fede. Grazie Romano e speriamo che qualche produttore si faccia vivo con te. Sentiamo al volo Anna da Mantova. Buongiorno Anna. Buongiorno. Veloce perché Buongiorno. Ho 30 secondi solo. Sì, volevo segnalare un'iniziativa del consorzio Latterie Virgilio che raccoglie le forme del parmigiano e del grana terremotate che non hanno ancora raggiunto l'età per avere il marchio della DOP. Le grattugia e le mette in una confezione che è distribuita in tutti i supermercati. E ci sarà un bollino anche su questo per testimoniare appunto questa iniziativa. C'è un bollino ed è molto riconoscibile perché come logo ha la foto della torre di Novi di Modena, quella che Perfetto. Poi è venuta giù. E questo, in questo modo di sicuro i soldi Certo. di questo formaggio arrivano alle aziende Bene. Che hanno veramente subito i danni. Grazie Laura da Bologna. Buongiorno Laura. Ecco, è caduta la linea, quindi ci avviciniamo alla fine senza sentire Laura da Bologna, che credo volesse fare delle domande circa le catene di distribuzione. Vabbè, comunque io vi do appuntamento non domani alle 18 con la replica, perché per questa settimana, visto che c'è l'Italia, visto che c'è la grande partita, non andrà in replica, ma sicuramente dalle prossime domeniche in poi. Vi do appuntamento domani alle 11.15 con il riposo del guerriero e ogni giorno con la pillola delle 11.05, replica alle 23.05. Vi auguro a tutti un buon weekend, anche se sentire il traffico c'è in giro per le strade, sicuramente sarà un weekend molto ma molto difficile, ma soprattutto lo sarà sicuramente per i terremotati molto ma molto di più. Un augurio a tutti i terremotati che possono riprendere l'attività in tanti e in tanti che possono tornare nelle proprie case. Caro saluto da Davide Paolini.